uscirà il 25 marzo a raccolta, il disco antologico dei 24 Grana, pubblicato in occasione della celebrazione dei 25 anni della loro prima omonima uscita discografica. Per parlare di tutto ciò abbiamo raggiunto uno dei membri dei 24 Grana, Francesco Di Bella, quindi buon pomeriggio Francesco e benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao a tutti, bentrovati, grazie. Allora, tra qualche giorno appunto uscirà il vostro nuovo disco che si chiama metaforicamente A Raccolta, no? I pezzi che hanno fatto la storia del gruppo. Com'è stato ripercorrere musicalmente questi 25 anni dei 24 Grana e com'è stato anche ritrovarsi insieme per questo progetto? È stato molto bello e tutto diciamo veramente a raccolta. Il disco voleva appunto raccontare sia diciamo questo album antologico compilato diciamo molto di cuore, non è stato semplice chiaramente assemblare le tracce perché comunque insomma ci sono tanti brani a cui noi membri di 24 Grana siamo tanto affezionati, e anche a richiamare poi il pubblico a questa reunion in cui tanto crediamo e non vedevamo l'ora che arrivasse, anche perché era stata diciamo organizzata prima del Covid e quindi abbiamo dovuto aspettare un po'. Tra l'altro ritornerete anche sul palco a proposito di belle notizie diciamo post più o meno Covid. Sì, infatti saremo a Bologna al TPO, siamo felici appunto di chiamare tutti a raccolta. Non so come spiegare, siamo abbastanza emozionati perché il gruppo era assente da 10 anni, toccheremo tutte città che ci stanno tanto a cuore, dove abbiamo lasciato pezzi di cuore, una bella fetta di pubblico, ancora di più dopo questi 2 anni così particolari. Non vediamo l'ora di far salire l'adrenalina sul palco. Tornando a parlare del disco, ti volevo chiedere Francesco come avete scelto i pezzi contenuti appunto nel disco, se c'è stato un criterio per la scelta di questi 11 brani. Sì, abbiamo chiaramente cercato di attraversare tutta la diciamo la nostra storia discografica, quindi partendo dal primo album, cercando più o meno di essere equilibrati nelle scelte. Un po' ci siamo riferiti a quello che ci diceva il cuore, un po' anche a quello che poi sono anche diciamo preferenze che il pubblico ci ha sempre espresso riguardo a determinati brani, quindi diciamo non è stato semplice, ma abbiamo fatto un mix di questi due diciamo momenti. Oltre a queste tracce ce n'è anche una che è la title track, no? Che si intitola appunto A Raccolta, è la prima canzone incisa dal gruppo dopo una lunga pausa, tra l'altro con anche il featuring di Clementino, quindi ti volevo chiedere com'è nata questa traccia e com'è nata anche la collaborazione con Clementino. Sì, infatti diciamo che ci siamo regalati questa registrazione ad Abbey Road a Londra, nei mitici studi diciamo di Abbey Road, perché volevamo appunto insomma ritrovarci insieme facendoci anche un regalo, un'esperienza diciamo molto particolare, e quindi abbiamo invitato anche il nostro caro amico Clementino a partecipare a queste sessioni di registrazione, e venuto fuori insomma questo brano che appunto insomma è un po' l'anthem di tutto il progetto, di questa chiamata raccolta veramente in tutti i sensi. Bene Francesco, io ti ringrazio veramente per averci raccontato un po' la storia di questo nuovo album e ricordiamo che appunto sarete anche su un palco bolognese, il palco del TPO, veramente fra pochissimo tempo, quindi insomma vi aspettiamo qua a Bologna. Felicissimi, veramente non vediamo l'ora di tornare a Bologna. Grazie Francesco. Grazie Rachele, un saluto a tutti gli ascoltatori.